fortunata d'amori, chi uta lumi la vita a uso fiori, se così bella a fatti m'auguri a tobilezza, calma l'on di infurori. E tu sei nata per amori, a lumani da gioia e calori. Terra nidigata